aveva un vizio e da così all'amore non ci senti più. Prendi il mondo allegramente, sempre sorridente, e felice sarai tu. All'amor tuo non chieda mai, dove vai, cosa fai? Il mio tormento provi in te, devi sorridere perché la gelosia non è più di moda, è una follia che non si usa più. Devi avere il tuo contento, siglo 900, per voler la gioventù. Novecento, fermo della gioventù.